bisogna che guardi cosa c'ha. E l'M93 non ci sono riuscito io a piazzarlo, assolutamente. Ho trovato la ricezione, la portante, però non esce. Ma non serve nulla, in che senso? Che non funziona? Quando lui dice che c'ha qualcosa a quell'MP4, quando funzionava benissimo, quando ce l'avevo nell'altro omologato. Strano, no? Strano sì, ce l'avevo un annetto in campagna, non lo so, si sarà rovinato, che ne so. Cioè, Mario, se c'è da cambiare qualche componente si può cambiare, non penso che sia irreparabile. Infatti Fabrizio me lo deve controllare, a vedere cosa malattia ha. Prova un po' Natalì, 1, 2, 3, prova, attenzione Natalì, mi senti, gappa, gappa. Mi senti? Mi sento. Vabbè, come si sente? Bene, male, brutto, com'è? Qua ci può attaccare anche l'MB+4 volendo. Ha visto, gaba. Attenzione Natalino, gaba. L'MB+4 me lo vendi insieme all'apparecchio, così almeno c'è un microfono come si deve. Perché il mio, non si sa cosa abbia. No, quello là è giù, quello là è giù dalla 25. No, ma poi quello non lo vendo, cosa fa? A parte che non è microfono da vendere, poi è un regalo che mi hanno fatto anche, da, no, non mi sembra da vendere. Gava, gava, là. Ma sto qua, come si sente? Guarda, allora, aspetta, questa ha due potenze, però l'altra potenza va un po' in saturazione. Non lo so, adesso provo, aspetta. A tu mi ascolti? Che? Franco, come mi ascolti? Ma è cambiata potenza, no? Ancora no? Ma dico, come mi ascolti in radio? Va bene, andante, com'è? Vuoi un parere tuo? È una radio normale, da niente di che. Tipo omologata. Ah, ok. E questo qua c'è il microfono amplificato, eh. No, adesso l'ho messo al massimo, adesso cambio potenza, aspetta. Guarda, adesso cambia qualcosa. Sì, certo, da 9 sei passata a 9.15. La radio è sempre bella? Sì, sì, non ha peggiorato tantissimo, no, va bene. Non è, però non è squillante come sono abituato a sentirti. Vabbè, male vorrà aperturare il decino, lo so, boh, sicuramente è per quello che non sta spingendo bene. Perché questi microfoni, questo è dell'Astra, quello amplificato, vanno bene, una batteria da 1,5. Sì, va bene. Tu come lo senti Natalia? Anche tu lo senti un po' chiusa la modulazione? Com'è Natalia? Guarda, ti ho mandato anche la foto su WhatsApp, Natalia, controlla. Da smanettare un po', dai. Cosa fa? Dico, sono da smanettare un po'. Io non tocco niente, non mi interessa. Io ho messo il LED nello smitter, adesso è bello bianco bianco, e niente. Posso, comunque così, oppure così. Comunque mi sembra che fa da 5 a 10 watt. Sì, la radio un po' è più forte così, quando abbassi. Lo so, perché magari è troppo tirata di watt, capito? Guarda, abbassata poco a poco. Vabbè, quello è un gioco farlo, dai, non è che... Io non lo faccio, non li tocco più a chi non dice di gabueo. Lo fa chi è di competenza. Ma vabbè, la potenza già è un trimmer solo. Ma qua non è, c'è scritto neanche che trimmerino è. Ma poi manco ne tocco. Ripeto, la radio è abbastanza nuova. Che radio è? Mobicom MB40, quello con frequenzimetro 200 canali. No, capito, tipo questi sono là. No, questo è... Ma su internet lo vedi, Mobicom MB40. Adesso, falla prendere il telefono là, che ce l'ho sotto carica da rimane a notti. Insomma, della batteria. Dai, l'hai vista la foto? Non l'ho vista, adesso il telefono lo vede. È un problema trovare il telefono, aspetta un attimo. Però è bello perché c'è il frequenzimetro, poi c'è il canale a fianco, c'ha lo smitter, due smitter c'ha praticamente, quello digitale e quello analogico. Io capisco. Secondo me se qua gli metti un MB+4, io non ci ho provato, ma se glielo metti, glielo voglio adattare, ce l'ho uno spinotto, però glielo voglio provare per vedere come esce. Io no, l'MB+4 ce l'ho da Fabrizio e non si sa, dice che c'ha qualcosa quel microfono, secondo lui. Con me funzionava bene con l'omologato che avevo prima, funzionava benissimo. Sì, c'è mai legato, non omologato. Questo è omologato, per me non è marchiato c'è. Cosa ti volevo dire? Anche questo c'era il frequenziometro. Si chiama frequenziometro, non frequenziometro, frequenziometro. Questo qui piace tanto, si dice la frequenza. Cosa sta lì? Questo qui schiaccia un tasto e ti esce la frequenza. È carino allora, ma si può espandere? Sì, il watt, ma questo lo lascio normale, dico deve rimanere così. Ho capito. Questo grigio è Luca. Diciamo che è un verdolino, verdolino, sembra un una via di mezzo, Un grigio bello, c'è un bel display digitale così. Si conferma, sì, vanno bene come apparecchi, poi ti posso dire, comunque non ho colpo, aspetta che mi sposto di qualche canale, parla tu fra. Allora, 1, 2, 3, prova, mi senti, prova. Mi senti? Assolutamente, guarda, due canali mi sbatteratte, canale 7 non vi sento per niente. Io adesso sto facendo con 4 watt, sono liscio. Stacca. Guarda un po', 1, 2, 3, prova, mi senti, 1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3, prova. Ma poco sbatteri fra, poco. Si sente proprio ronzio dal canale, tipo canale 6-7 lì, ma poi non ti sento più. Ma non è biglia a goi pighissu, ma non è prenda, allucinante. Come anche questo difficilmente sento colpi, cioè così da un canale all'altro e boom. Sì, se attacco l'alcol modificato e lo faccio poi dire già mi senti, altro che. Sì, ma sempre uno o due canali, non di più, Perché? Perché non c'è una buona ricezione. Se avessi una buona ricezione sarei biglico, fidati. Ma fidati veramente. Sicuramente come si chiama? Sul tetto, magari arriverà anche più forte. Così dici, no? Hai più ricezione e trasmetti più forte. Sono sicuro che se tu metti la tela sul tetto mi darai più mattana, ti sentirò di più. No, Natalino con il telefono lo sento, ma lui fa sul 20, io sto sul 10, lo sento. No, questi ripelli no, assolutamente. Oh, anche questa antenna è molto selettiva. Ma io sono più vicino a te, Luca, deve essere. È per quello, E poi c'è una 580 io. È per quello che pure se passa, e per quello magari mi senti. 4 watt, perché questo più di 4 watt non dà. Perlomeno loro dicono 4 watt, ma magari saranno i pure 3. E io questo l'ho abbassato per non mandare in saturazione l'alfa lì, ma da. Va. Così c'è meno ingresso. Meno ingresso hai e meno saturazione prende l'alfa lì. Ehi, perdi qualche watt, non so, invece di dartene 300, te ne da 250 o 200, però almeno è bella la modulazione. In effetti è così. Ah, io Luca, quanto ne vuoi, se no me ne cerco uno che abbia le bande laterali e tutto, ma... Yes. Qual è l'omologato che ha le bande laterali? Oh, non lo so, bisognerebbe cercarlo uno che sia omologato, ma te lo fanno pagare col sale e col pepe, però... C'è sempre quei 40 canali, cioè sul 45, ma sul 27 555 non ci arrivi a fare DX. No, se è normale no, ma io non me ne frega niente che sia omologato, questo qui lo tengo perché devo non venire a vedere un po'. Beh, almeno uno ci vuole. Lo rimane così, questo qui si può modificare, volendo. Aumenti i canali, 40 canali mi pare in razza, da poi il razzo, solo che non accetta microfoni amplificati. Me l'ho regalato l'M93 a me, non so così ci da piazzarlo, poi c'è lo spinotto a 8 pin, questo qui attaccato, che non è saldato. Sicuramente gli hanno fatto qualche accrocchio per non modificarlo, bisognerà trovare qual è l'inghippo. Infatti manco Fabrizio ci è riuscito, adesso mi deve controllare quelle MDC4, io ho aspettato a comprarmelo, perché ragazzi, mi dispiace, funzionava benissimo quel microfono. Comunque da 20 watt questa RA, ma allora, così... sinistra, cala a 20, cala a 20, aspetta, cala a 20, 10 watt sta dando. Così sono 2 watt, 10 watt. Con 2 watt è più forte Natalino, invece con 10 lo superi tu. Diciamo che secondo me è troppo tirata, vorrebbe abbassare un po', perché lo smitter, che c'è un 25 ampere nell'alimentatore, lo smitter, lo batteria di led, un po' si abbassa la luce, cioè lo smitter nel digitale, là. E all'inizio avrei parlato in due, all'inizio. Aspetta un attimo. Stazionario, 1 e 1. Quanto ti arrivo, Fra? Sei sul più del 30. Ho capito. Aspetta, è così? Più basso? Scende quasi mezzo punto. Ho capito. Però con 5 watt non ho stazionarie. Allora, vediamo un po'. Ricordiamo. C'è un 5 watt, un 2 watt. No, 5 watt. 5 watt, però se lo mando così, fai che dia, perché sono a stare a 5, 10, 12 watt, dai. Buono, nella distanza ti servono quei watt. Infatti, va a sbattere, se sarà a 20, sì, no, sono 10 watt, no, 10 bugia, 10 spaccati. Sì, c'è una massa che è spento. Allora, fammi vedere. 11 watt sono, fanno 10, 11 watt. Beh, c'è anche picchi di modulazione quando parli. Zappa. L'hai visto, Natali? Non ci ho fatto caso, ero girato dall'altra parte. Che stavo ascoltando. A voi. Sta a posto, l'hai vista? No, no, non c'è. Guardami, non so se tu ci avessi il telefono. Allora. Allora. Andare, andare. Sta saturando, no? No, tutti i led mi accendi a fondo scala. Ah, led ce l'hai così? Cioè, il led e lo smitter. Perché io ho visto il led, ho visto lo smitter sulla destra, là. Lo smitter mi sta arrivando 9.10. Basso però. Lo so, vuol dire vorrà tarato adesso. Lo tocco l'uzza, ormai così e boh. Ah, vorrà tarato, sì, ho capito. Con niente, non mi interessa, no, non ci sta anch'io a mattare lo ZB, giù, basta. Questi un po' li ho aumentati perché io non segnavo in nulla, boh. Il più forte arrivava a Santiago 9, 9, 5, adesso l'ho portato almeno sui 9,30, dai, i più forti. L'hai visto, Natali? L'ho visto. È nuovo, nuovo, nuovo. Ciao, ragazza! Stamattina stavo parlando in FM, canali bassi, però non sono riuscito a capire, forse Ucraina, dalla Russia, dai. C'è un po' di propagazione sui canali alti. Lo paghi sul testa? Sul 12 superiore, dai. Si sente che c'è qualcuno. Cata, sono 1,3 e 1,4, mi salgono, cata, quando attacco, però non riesco a abbassarle. Fatto proprio a pararla, no? Eppure senza quello lì attaccato e cioè, neanche si muove l'ago. Come lo attacco, collego tutti i casi, più di 1,3 e 1,4 non scendono, accordando, Ma bisogna essere sempre in due, uno che tara e uno che controlla tutto. Adesso non ti viene un bel male. No, questa è una cavolata, c'è una finestra, ci metto poco a... La devo saccare il PL dagli attacchi, anzi è bulloncino, non è PL. Poi metto giù, allungo il filo, accorcio il filo e basta. E poi un po' c'è l'antisolante, Adesso poco fa l'ho provato a accorciarla, ma non cambia quasi nulla. Poi il coso, ci vuole l'analizzatore d'antenna per sapere l'impedenza quant'è. Anche. Con quello è un gioco, perché guardi quanto è l'impedenza e sai se devi allungare o accorciare lo stub. E la porti al massimo del rendimento, dai. Adesso Mario va bene, però non è il massimo, potresti limargli qualcosa ancora. Infatti, si conferma. Beh, io inizio a preparare qualcosa per il pranzo, dai. Sono qua in QRX. Buon QRX, allora, dai. Buon buongiorno a Quirix. Anch'io devo preparare la roba per il pranzo fra un po'. Sì, io ho fatto, ho preso mezzo porcetto lì da dove mi ha detto, come lui si chiama, Luca. Tu me l'hai detto, no, forse Gianni in doppio room, lì in via Pascoli. Sì, vendono roba buona. Mi ha detto che è roba nostra, boh, sembra bellino, non è neanche grasso. Poi vediamo un poco quello che esce, esce un letto di patate e lo dry da sopra, dai. A più tardi. Ah, più tardi allora, dai. Già, guarda il telefono. Canagana.